con la coda non ha più il libro del cartone su. Allora lo mette in bagno e punta la porta del bagno sua e a fianco la porta del bagno mia, a 10-20 centimetri. Per non far sentire la puzza del pesce, questo qui cosa fa? Spruzza dei deodoranti. Io sono 3 anni appena si è chiuse, perché questi deodoranti che spruzza puzzolisti, ma entra dentro casa. Quando cucina pesce non se ne parli, ma non è un profumo di pesce, è roba puzzinosa. Per carità di Dio. Allora io, se ci capita dove, non mi resistavo. Ah già, io abitavo 60 anni nella mia casa, dal 59, sino a 3 anni e mezzo fa. Ma prima, nessuno che disturbava, nessuno che... Ma guarda, e ti posso assicurare che c'è anche gente poco raccomandabile lì. Eh? Beh, nonostante tutto, non è mai successo niente, mai. Perché se uno dice che guarda, se facendo casino, quello faceva attenzione. Ma non è che ti alzi, cazzo, tutte le mattine alle 6, perché fanno orari strani questi, non fanno orari normali. Ti metti le scarpe, tu-du, tu-du, tu-du, tu-du, tu-du. Ma vattene a fanculo, stai dicendo non è bestemmia che li sto tirando io, quello cazzo non c'è dubbio. Allora cosa fa? Ho preso un ferro una notte, cazzo. Bu, il ferro della tenda, ho cominciato a battere su. Una volta a casa e domani andiamo a incontrare cazzato con una bestia che io stavo facendo un casino, senti che ha giocato la territoria di Manzano, ti pone a voce a scannarsi con questa cazzo di donna che hai a fianco, e sono due giovani pure. Sono due delinquenti a che non ne ha fatti nulla. Sì, e ti ha rovinato anche il soffitto così. Gianni, sì, ma siccome questo deve essere Gianni. Lavorano di notte, non so che cazzo. Cazzo, ma non mi senti? Ehi, agita io una di queste mattine. Gianni. Alle 8 arrivo per le mattine. Attacco il trappo, una percussione. Ci metto qualche cosa su una volta. Via una vera. E mi risveglio tutti giù. E poi uscirà lì. Poi che uscirà lì. Ecco, ma quando mai tu quando rientri a mezzanotte, alla 1, alle 11, tutte le notti, ma che cazzo devi spostare i mobili? Ma devi spostare i mobili alle 11 a mezzanotte, a sbattere tutto sul pavimento? Ma dove cazzo sono finito? In mezzo a quando vai a fare delinquenti, cazzo? Mai, non ci stiamo pensando di andarcene. Stiamo pensando di andare via e ci siamo creati, cazzo. Aspetta, c'è qualcuno che ha chiamato, allora. A vedere dove era Bruno che non arriva qua. Ma tu pure non mi sentivi, davvero? Io ti ho sentito che ha chiamato Gianni, però qui ha ripreso Bruno e non faccio tempo a passare a farti riavere il microfono. Sì, ti ho sentito che mi ha chiamato Gianni. Bruno, non senti Tarino, dice che non ti sente. Così sta andando sul fondo, basta. E io lo su, non è sole, la via che poi va a finire alle queste, sono lì dove c'è un spiato, hai capito, Natalino? E alle queste lì, a non è sole. Qui arriva incomprensibile, già lo sai come c'è l'antenna io. Hai capito, Bru, hai detto che arrivi ma è incomprensibile. E vabbè, sai cosa, se lui avesse avuto un'antenna buona, magari gli andava la macchina e mi avrebbe sentito. Purtroppo io dalla macchina e lui non appena messa male, è chiaro che non siamo. Prima un po' lo sentivo quando ero alla parte, quando ero verso casa tua che stavo salendo, ho sentito un po' prima che chiudesse. Lascia arrivare 9:30, non ti dico altro, 9:30 sì. Io? E io? Non quella antenna che l'hai messata. Quella che ci ho fatto comprare io, quella la turbo, la mini turbo, quella lì va bene. Allora, ma me la so con questa zona per essere un po' più in alto, perché cosa vuoi, dalla macchina, se non hai una buona posizione, non ti senti nessuno, per cui ho detto, vabbè, me la so giù un pochettino e riesco a sentire qualcuno, e figurati che dalla zona bassa dell'Alte Doce non sentivo né a Gio Maria né a Tore, e me ne venivo qui su e li sentivo. zona buona. Avere la casa lì che è una bella zona quella lì bruca. Comunque anche la radio è buona oggi, come mai? Che cosa hai messo come radio? Oggi sto usando lo Zodiac. No, quell'Intech, questo Zodiac è molto vecchio, un baracchino, questo che ha fatto una battaglia, però mi sembra che è meglio di quello Intech, quello nuovo, che ha il microfono, che non è molto, che avevo comprato anche un preamplificato, ma non ha mai funzionato. No, questo esce bene, questo esce bene. HB23 Polelli, ma non è come si esce da HB. Quando è in garage da auto, quello in realtà era di auto, anche per 23, ma non deve essere ancora lì. E insieme nella scatola dove c'era il cabinetto, ci deve essere anche il mio Tokai 5024, perché era tutto lì, io poi me ne sono andato da lì e ho lasciato tutto giù, non ho portato via niente. L'unica cosa che ho portato via è quella colibri, quell'antenna gialla, quella rossa, che quella lì la uso a casa, l'ho messa sul balcone e ti dico che funziona bene quanto l'antenna che ho comprato, quando l'ho comprato da Fusaro, come si chiama, perché c'è anche di rosso, la Boomerang. Ho chiesto controlli con la Colibri, a momenti funziona meglio che da della macchina che la Boomerang, che la Boomerang è quella da 3 metri, solo che c'è sempre il discorso di palazzone davanti. E io, Natalia, riprendo. Io cosa riprendo? A Bruno non lo sento, dai, riascolto, cioè ascolto solo a te, a Bruno non la faccio. Spiegaglielo che c'ho l'antenna in terra e non sento a tutti. Adesso quando ripristino il tutto vuol dire che andrà meglio. Oh Bru, perché non te ne scegli e vai a San Francesco? Qui se c'è Catalino, perché non ti sente? C'è l'antenna in terra, deve farsi il lavoro, deve metterla sul tetto e se quando la metti sul tetto ha poca ricezione, capito? Aspetta che mi sto soltanto, che salgo su verso proprio la parte alta delle Querce, perché adesso non è che sono di Querce, sono vicino lì all'ingresso tra Luna e Sole, la via che va su alle Querce, ma adesso mi sono messo in movimento e vediamo se riesce a sentirmi quando salgo ancora un po' più su. Ma è il parcheggio delle Querce, l'ho preso stamattina, almeno ha rubato di 10 dal parcheggio delle Querce. Speriamo adesso che mi senta meglio, perché io sto salendo adesso. Ma tali meglio lo sento. No, basso intendo. Se c'ho l'antenna in terra, a me c'è un pezzettino di silo dal tetto. A tutti dini, dai, tanto devo chiudere subito, sennò questo stronzo mi telefona. Vedi ragazzo, quando piazzo l'antenna sul tetto lo minaccio pure. Anche l'antenna TV mi devo piazzare adesso nuova, perché mi ha sabotato pure quella, quel bastardo. Cazzo, e io credo che dopo che fai lavoro non ti rompa le balle di nuovo e ti saboti buruisci. No, allora gli tiro una fucilata in fronte, glielo dico. Me ne vado in prigione, ma tu crepi, perché te ne butto da lì stesso. Ti tiro e metto una palla in fronte, tranquillo che tu arrivi in terra, manco mo ti conosci, ti dico. Mi raffreggio, se mi, qualsiasi cosa che mi tocchi sei tu. Se a me mi succede qualcosa, tu prega che non faccio mai niente. A chi se no ti posso un uovo nuovo. Questo è il solito segnale. Mi pare che non è che andata tanto in basso, intanto a quanto capito qua non si fa niente, io sentirò meglio. Ma te l'ho detto, vai via San Francesco lì, invece di salire dove ci sono le antenne grandi, se vai giri e vai verso l'altra parte, dove c'è il Belvedere lì. Ti fermi lì e vedrai che pigli tutta la sassa dei ranchivi, non c'è bisogno di andare a Luna e Sole. Scendo verso la parte del monte, così dal monte lo potrebbe sentire, magari mi metto lì vicino di adotto. Sempre, guarda, ti sento sempre bene. No, te l'ho detto dove metterti, vai dove ce l'ho detto io, vedrai che te l'ascolti bene. Sì, ma non ne vale la pena, già, devo chiudere adesso, sono già alle 7:30. manco pa abbria, già brevo quando mi pongo l'antenna sul tetto. Quando mi metto l'antenna sul tetto lo minaccio, qualsiasi cosa mi succede sei tu e mi baghi tutto, mi, fino all'ultimo centesimo, anche se non ti sei bideggio. Tu chiedi al tuo cognato chi sono io, perché tu non lo sai chi sono io. Dica, tu manda la cognata a vedere se ricompena, tu mi si contro di me. Vedrai cosa riposti io, a Isso. A futtidini già là, sto chiudendo, salutamela Bruno, perché intanto non posso modulare, che sennò subito mi telefono a questo stronzo. Ci sentiamo là. Ma perché non vuoi rompere la scatola di Se supero le 7:30 dice che lo disturbo, mi telefona e dice che lo disturbo, no? Perché io avevo fatto quell'accordo lì, solo che adesso quando me la metto sul tetto se lo disturbo so cazzi suoi. Perché glielo dico, qualsiasi cosa mi succede sei tu, prima ti denuncio e da lui dice mi deggio, a chi ti cudo voce? Vabbè, mettali, non ti rabbiglia a curi. Quando fai il lavoro vedrai che la cosa cambia. E sul tetto ci deve anche salire lui per distruggerti le cose. Invece ti infilo lontano dalla sua finestra. Lo faccio io, già lo metto dentro un tubo di ferro. Ma succedimi a che cosa bisogna tagliare quella moletta. Sentendo il rumore di moletta, cazzo, mi devo pulire qui. Da sotto. Cosa là? Iedu? Non può capire nulla. Già li sto pagando quei soldi della scala aerea, ma chi non ve la potete pagare, me la faccio pagare, se mi tocca l'antenna o qualsiasi cosa che mi succede, lo faccio a pezzi. A chi ricuva una giusta a gatto, che lo, 6 mesi d'ospedale deve fare, in trazione. E poi le costole non si possono ingessare, a chi ricudo pure i scarponi, cazzo proprio a rigoccioli, ma frattuarli i rigoccioli, per farli proprio male. Gioia. Va bene, Natali, dai, adesso vediamo. Ma se come si mette la situazione dopo che la metti sul tetto, magari non ti zecca più. Non mi deve zicare, a chi... Non mi deve succedere niente, perché mi ha sabotato anche l'antenna TV comprata nuova, quella lì. Non ha più di 3 anni quell'antenna. Io sto vedendo la televisione perché mi ha passato un cavo Adriano. E se no ti posto la fotografia e ti lo posso vedere. Se no manco televisione potevo vedere. Ma come ha fatto se non è parte di fronte? Il cavo dell'antenna però passa qua, lui è uscito dalla finestra e ha fatto quello che ha voluto. Che si l'ha tagliato, uscì. Se ti sto dicendo che non funzionerà più, cazzo, però manco lui vede se si è agganciato all'antenna mia, perché io l'alimentatore ho preso e l'ho spento, capito? Quindi se corrente all'amplificatore non mi arriva. E beh, la televisione non la puoi recuperare, quella nuova. Allora, con la maletta la faccio tagliare, la faccio buttare giù in strada. Me la compro nuova, così ti spreco meno tempo, capito? Quando salgo un nuovo cestello, me la piazzano sotto il coso del baracchino, l'antenna TV. E quella vecchia la faccio tagliare, palo e tutto, buttala giù. E così vedo cosa ha combinato lui. Una maletta mi ha rotto proprio sigaro. E durante la gira devi giambare Zuia, si deve mettere l'antenna nuova se vuole vedere la TV, se no non è vero, questo è poco ma è sicuro, perché lì così denunciarmi, così come vengono se ne vanno. Yeah. È una lotta incredibile, è una lotta, non finisce mai, è una cosa continua. Ma lui ha perso, di dopo te ne ce ne dei bugie dai nomi. Di no, che non vedevi già. Io qua non ti dico cosa gli devo fare, perché non te lo posso dire, né qua né al telefono, già te lo dico di persona. Ed non ha compreso che ti ha potuto venire fresco un medico. Infatti, ma speriamo che si calmi. E se ha detto che quasi a non so cosa, che apri a Gabistuglia, tutto caso, a voi si è tirato da lì il dono. Oia, si è sempre in giro, gatto, che mannaggia. Mi devo chiamare la scala aerea, devo pagare, ma pure fare il suo travaglio, lo sai tu. scaglia pure pagata, è anche cara. Tranquillo. E dopo quando la vedo lo minaccio di brutto. Se guarda, vedi mi che mi ha fatto il lavoro. Ho speso cazzo un sacco di soldi. Stai attento, attento a te. A chi la minima cosa che mi succede è che tu travagli qua giù a travare, sei tu. Mi abito con te, guai, occhio. Se uno per avere una passione deve fare tutte queste peripezie. Ma lui ha perso con me, questa volta ha perso, a chi mi ha fatto incazzare vero? Sì, ma prima una, ma l'altro, insomma, in chi mi lascia nei 9 euro che si salvi, e che sono di Bocciodorra ancora? E che è di Bocciodorra? E su Casanzi. Ah, quello l'hanno messo in un istituto, perché ha avuto un ictus, deve essere, è roba di 7 mesi che manca da qua. Allora, culo, non vedi. Ma pure l'altro non senta randa, Sini. Te lo dico io che ce ne va. Via. Allora, fumando, Io cosa cazzo non si va un ciappo di culo, ma giusto al gatto, ma tu è un'accusa, Edo. Si tocca che cosa mia è futtito. Perché non ne va via giù più, tiruto con disegno, mi ha fatto saltare i nervi. Beh, ti grillo. Non puoi fare quello che vuoi. Dove finisce la sua libertà e c'è quella della sua persona. Non può limitare la libertà agli altri. Questo fa più dispetti di quell'altro. Però ha finito di fare i dispetti, te lo dico io che ha finito. Perché quell'antenna vecchia la faccio tagliare con la maletta. Proprio, la faccio buttare giù, ce la butto io personalmente nel cassonetto. Io li spendo quei soldi, ma ve li posso pagare, non ti preoccupare chi li paga, dovessi di là. In spese mediche soprattutto. Ma non travaglia io. E qualche lavoretto in nero si fa. Cos'è, fra Bigamuru? E allora? Fra Bigamuru? Ma. Soia. Vabbè. È la zona di San Bruno così, non venuta io fare, ci dà da una e entra l'asso, capito? Ci sono quei zendi, si vede il macco, diventa subito sano, diventa, ma subito però me, prenderà anche la decisione di avviarsi in presa Buru, te lo dico io, perché gli rendo la vita difficile, lui mi ha fatto quei dispetti, vedrai che la paga. Come potevi stare tranquillo, forse la tua pensione tranquillo, gas. Vedi, manco in quel modo sono tranquillo, ma già mi sto incassando i soldi per quello, non c'è problema. Cazzo. Vedrai tu che a più mi ti consigli lo porto a questo delinquente, perché questo è un delinquente ed è matto pure. Sanno di capo non è uno di patrici di petti così. Con chi ha a che fare? Deve stare un bel attento, a me la macchina non è che mi freni, mi bene. E poi qua è nato scimmia, la discendenza della scimmia. E vabbè, a me la macchina intanto non è che mi freni assai bene, compreso. Se tu mi vado a che di petto, d'orra è fottito, se poi tu vieni precavero. Io ti rimando cazzo in salaggissimi. Vabbè, Natale, non ti compromettere. Ah no, non mi ha frenato la macchina, non mi vado in un cazzo a me. Ti ha assicurato, però tu si fate 6 mesi di pirari. E quando ne esci dentro, quando ne esci il pirari, d'orra sotto, ti rubo. Vediamo un po' se è entrato Bruno. Bruno, ci sei? È entrato al supermercato a comprarsi della roba, e poi non è uscito ancora. Evidentemente no. Ma te l'immagini questo pezzo di merda? Ah, mi telefoneggiami. A chi si occupa di denti, sono l'ultimo manco vinto. Io non mi sarei messo problemi. Arrivo a questo punto, Natali, si va di ripetere sempre. Che non rimane problemi mai. E infatti. mi, chi c'è detto, mi vedi? Lì tu ti arrivo. Sto chiudendo già, è lui, da. Manco un rispondo, smetto e buco. Andi a fanculo, sino ven a zucchino che mi do cacudile, se buttarlo fuori giù dalle scale, il durone. Sì, stai tranquillo, va. Vai, cazzo solo che deve essere limitato, non è così, boh. Vai tranquillo, va. Attenzione Bruno Ragano, se ci sei, se lo sto chiudendo. Amburac, saluto tutti, se do più buone in ascolto. E quello che ci permette. Ciao, ciao Bruno, se ci sei all'ascolto, non lo so, se ci sei. Andate, sentiamo, ciao ciao.